Your headlights are on. Sono le ore 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi 22 giugno del 2022. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30, allorché poi ci sarà 25 o'clock come ogni mercoledì sera. Ricordiamo l'urgenza della sottoscrizione tramite crowdfunding, un abbonamento che consiste in 30 euro per 1000 ascoltatori, un abbonamento che si può fare attraverso il crowdfunding andando sul sito della radio, andando proprio sul banner specifico e scegliendo la modalità più adatta. Saluto Serena qui a Roma, Maya e Nicolocci in Sardegna, Antichrist del progetto Omicidio in quel di Firenze. Doriana a Taranto, Enrico Ponzoni di Soconsci Bus Project, Jean-Claude Bertò. Il fedelissimo Francesco Cornello, il medico della pesta, Mariano in quel di Berlino. Deste Carlo from Boston, Giulia qui a Roma. E poi ancora Laura. Dopodiché si può iniziare e lo facciamo con un lavoro di Eugene Vintras e della sua idea musicale che risponde al nome di Gin. Questo è un lavoro che si chiama Pianto della Terra, un lavoro che si discosta abbastanza dal, diciamo tra virgolette, classici lavori di Gin. Leggiamo una nota introduttiva proprio sul disco. Questo lavoro si discosta dal consueto modus operandi utilizzato nel corso degli anni per il mio progetto. L'intero lavoro è stato realizzato elaborando e usufruendo di sole registrazioni ambientali. Per la precisione, in ambiente montano e boschivo. Tale lavoro non aggiunge nulla di nuovo a quanto è prodotto fino nella scena musicale ed effettivamente già realizzato in passato da altri progetti. Segna tuttavia un punto di svolta netto della mia esistenza. E poi altre considerazioni. Comunque noi ci andiamo ad ascoltare il capitolo numero 1 che ovviamente va ad aprire l'intero lavoro. Eccoci qua, abbiamo un problemino con il microfono. Dicevamo, gli scurissimi Fields Recording, operati e attuati e messi in pratica da Gene, il nostro Eugene Bintras, oscuro artista da Venezia. Il pianto della terra, diviso in 4 capitoli. Album che ci andremo ad ascoltare naturalmente anche le prossime settimane. Intanto ci sono aggiunti nel parterre di ascoltatori anche Anna qui a Roma e Like Wake, storico progetto ambient sempre qui della capitale. Poi Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster, anche loro hanno spesso popolato le nostre selezioni. Torneremo più avanti in Italia, adesso invece ci trasferiamo in Scandinavia, andiamo in Svezia, andiamo da Erik Jarl, già artista degli IRM. Attraverso la Reverse Alignment, rilevata anche dal nostro Raffaele Pezzella, esce questo Spectrum Confusion, 3 lunghi movimenti in parti somiglianti a quello che sta andando sotto la mia voce, sempre di Did Gene. Anche se le soluzioni, diciamo, più usate sono quelle inerenti alla Death Ambient, con tratteggi anche di Saturo Industrial. Spectrum Confusion numero 3, ci ascoltiamo la parte B proprio di questa lunga traccia di ben 20 minuti. Lui era Eric Jarle, Jarle, con questo suo Spectrum Confusion, un lavoro dello scorso anno diviso in tre lunghi movimenti esattamente ipnotico, austera, siderale, solenne, elettronica. E effettivamente ipnotica, come giustamente sottolinea Doriana. Si torna in Italia, lasciamo dunque la Scandinavia, ce ne andiamo in Toscana e andiamo da Ambasce, progetto relativamente nuovo che incide con la Dissipazio di Nicola Quiriconi. I climi sono più minacciosi di quelli sentiti fino ad ora. Le manipolazioni industrial di Alberto Picchi. Si chiama Isola Santa, uscita l'8 aprile di quest'anno. Ci ascoltiamo proprio la title track e la terza traccia che porta il nome Lingua degli Uccelli. Emergente dunque realtà la dissipazio, questa etichetta di Nicola Quericoni, che negli ultimi tempi ha dato alla luce molti molti lavori interessanti, compreso questo Isola Santa di Alberto Picchi, alias Ambasce. Si vanno ad alternare cortine di rumore scomposto a oblique strategie quasi dall'andamento mantrico. E dunque una buona uscita questa di Ambasce che andiamo a salutare. Sempre su questi rumori sinistri, ossessivi e in questo caso anche al confine con la cultura IDM glitches, andiamo da un altro artista italiano, Giovanni Lami, che abbiamo già conosciuto in occasione di Krishnamurti in collaborazione con Lorenzo Abattoir. Ampia la discografia di Giovanni Lami che si può trovare sul suo profilo Bandcamp e noi siamo andati un po' a vedere e a conoscere l'ultimo lavoro dal nome Deva Hovel. La lunga Ippocrate metodica. Disposto a lasciare andare le cose che lo hanno fatto ammalare. Non risponde. Prima di qualunque cosa, chiedigli se è disposto a lasciare andare le cose che lo hanno fatto ammalare. Non risponde. Rischia di dire, lasciali andare le cose che l'hanno fatto malare. Chiediglielo. Chiedi per forza. devo parzialmente correggere per quanto riguarda questa ultima opera che ci siamo ascoltati, Aurora. C'è sempre Giovanni Lami chiaramente dietro, ma il vero nome del progetto è Deva Hovel, e Deva Hovel è anche il titolo dell'opera, così frastagliata, sperimentale, dal cipiglio sperimentale, che va anche a toccare delle corde che ci hanno fatto ricordare effettivamente, di questo ringrazio Antonio, anche il buon Murkoff da un lato e Matt Moss dall'altro. La lunga Ippocrate metodica per Deva Hovel. Questa sera molti, molti artisti italiani, e infatti andiamo avanti con Roberto Figa, con atmosfere non lontanissime da queste. Le andremo a carpire da Echoes from the Planet, album incentrato sul dramma dell'immigrazione mondiale. Si chiama Gender Revolution in Rojava, la traccia di questa sera. چاوا مجی خو راس مشغلینی او چاوا ای دور خو تنظیم بکی چاوا مجی خو راس مشغلینی او چاوا ای دور خو تنظیم بکی چاوا مجی خو راس مشغلینی او چاوا ای دور خو تنظیم بکی چاوا مجی خو راس مشغلینی او چاوا ای دور خو تنظیم بکی چاوا مجی خو راس مشغلینی او چاوا ای دور خو تنظیم بکی چاوا مجی خو راس مشغلینی او چاوا ای دور خو تنظیم بکی چاوا مجی خو راس مشغلینی او چاوا ای دور خو تنظیم بکی Impulsi scomposti provengono da Roberto Figa, da questo Icos from the Planet. Gender Fraud Rojava. Gender Revolution Rojava. Rojava viene spesso citata nell'album, quindi si parla di Kurdistan, delle lotte che vengono da laggiù. Lavoro che esce per la setola di maiale, un nome graziosissimo di questa etichetta ultrasotterranea, coraggiosa realtà. E da queste nuove realtà italiane della sperimentazione ci spostiamo nella vicina Svizzera con Joel Gilardini e il suo progetto Psychic Drones. In realtà ha gestito due con Kazuyuki Kishino, meglio famoso come KK Null. E da Psychic Drone Number 2 ci ascoltiamo Mind to Step e Tabula Rasa, Nowhere to Go.